in primo piano. I giornali oggi così variano. C'è chi si butta sulla politica, come Repubblica, riforme, scontro, Fini, Berlusconi, La Stampa, la sfida di Bossi al PDL, la Lega primo partito al nord, ma Berlusconi dice nessun sorpasso. Oppure Il Giornale, l'ennesimo attacco a Fini. Fini non sa che domenica si vota. È il titolo di apertura. C'è chi si butta sulla cronaca, come apertura, Il Corriere, Pusher morto nel caso Marrazzo, carabiniere indagato per omicidio, così anche Il Messaggero, caso Marrazzo, un indagato per omicidio. C'è chi si concentra sulla TV, per l'appunto, Libero, Santoro resuscita gli zombie, che sarebbero poi Luttazzi, Dario Fo e altri relitti anti-berlusconiani definiti in prima pagina. Mentre Il Fatto Quotidiano, Rai vergogna, assolto Masi. E poi Rai per una notte senza bavaglio. Rai per una notte è il titolo della manifestazione di Santoro che verrà trasmessa, appunto, come detto, da varie TV. Il Sole 24 Ore, il tema economico del giorno, la crisi europea affossa l'euro, moneta unica 1,33 dollari, il minimo da 10 mesi. Poi ci sono anche i dati ben evidenziati in prima pagina sull'occupazione, record negativo nel 2009, persi 380.000 posti, disoccupazione all'8,2%, un dato purtroppo non si registrava dal 2001. Comunque, ultimi scampoli di campagna politica, come detto i temi all'ordine del giorno sono tanti sui giornali, vengono proposti, c'è Napolitano, come detto e avete sentito, ieri ha ribadito rispettare l'unità delle istituzioni e Il Sole 24 Ore con Dino Pesole ribadisce insomma questo appello del capo dello Stato. C'è di fatto che succede invece? Che si registra qualcosa di tensione, ma non è una grande novità, tra Berlusconi e Fini. Berlusconi insiste, elezione diretta, questo per il presidenzialismo, lo leggiamo a pagina 3 della Stampa. Ieri Berlusconi era in Puglia, con sia Repubblica che ribadisce, un articolo anche questo letto varie volte, l'ira del cavaliere con Gianfranco, qualcuno sta giocando per perdere, Francesco Bei a pagina 3, ancora questo termine che torna, aria da resa dei conti dopo la campagna elettorale, così come Libero, Salvatore Dama, un Berlusconi che avrebbe detto ma Fini che cosa fa, insomma io mi do da fare, io mi sto dannando l'anima, mentre che cosa sta facendo lui per la campagna elettorale. Così abbiamo detto Il Giornale in prima pagina. Fini non sa che domenica si vota, questo è il titolo di apertura, con un Vittorio Feltri come sempre molto graffiante a Fini. Dice: negli ultimi mesi abbiamo polemizzato anche aspramente con lui, lui non ha gradito, ci è arrivato anche a querelare. Però elenca Feltri ancora quelli che secondo lui sono i non interventi, o meglio gli interventi contrari di Fini nei confronti di Berlusconi. Una volta che Berlusconi dice A, Fini sostanzialmente dopo 10 minuti dice B, questo dice Feltri, che conclude il suo editoriale: non è importante che collabori a far vincere la parte politica al momento anche sua, ci accontenteremmo se non la danneggiasse, chiede Vittorio Feltri. Stranamente invece è Il Foglio che in un'analisi dice, scrive, tira aria di pace, ebbene sì, un po' in controtendenza, quella tra Fini e Berlusconi. Non è una luna di miele, ma il cavaliere e Fini hanno 3 anni per intendersi, il patto tra cofondatori, questo è in prima pagina del Foglio. Chi invece è un po' scettico è il Corriere della Sera, con un editoriale di Angelo Panebianco in prima pagina. Tremonti, Fini e le scelte del PDL, scrive il professor Panebianco, comunque vadano le elezioni regionali per il Popolo della Libertà, i risultati difficilmente ne freneranno la conflittualità interna. Per 2 ragioni. La prima è che il calendario politico è diverso dal calendario gregoriano. Secondo il calendario gregoriano mancano 3 anni al 2013, alla fine della legislatura. Ma per il calendario politico ne mancano 2. Nel senso che il governo ormai ha poco tempo per attuare i suoi programmi. 2 anni, forse anche meno. L'ultimo anno sarà elettorale. A quel punto si scalderanno i muscoli, si fronteggeranno le manovre, l'attività dell'esecutivo verrà piegata a queste esigenze. La seconda ragione è che il PDL è una costruzione assai fragile, aggregazione di una molteplicità di gruppi e gruppuscoli tenuti insieme solo dalla leadership di Berlusconi, sul quale per giunta pesa il conflitto tra il Premier e Fini. Dunque, dice Panebianco, il conflitto c'è. Come potrà stare insieme, si chiede poi più avanti Panebianco, questa aggregazione? Qualcuno potrà vincere la partita della successione a Berlusconi mantenendola unita? Al momento c'è un solo dirigente che ha messo il suo ingegno, le sue risorse culturali, la sua capacità di governo al servizio di un progetto post-berlusconiano. Chi è? Giulio Tremonti. Questo per Panebianco in prima pagina del Corriere della Sera. C'è qualcosa anche, come al solito, dei temi delle regionali. Bisogna andare un po' a spulciare qua e là nei giornali, ma si trova. Oggi, per esempio, il Sole 24 Ore mette a confronto i due candidati della regione Piemonte, i due principali candidati, Cota della Lega, e dunque il centrodestra, e Mercedes Bresso del PD centrosinistra, il governatore uscente. C'è questa domanda sul nucleare alla quale Cota risponde così: non sono contrario a prioristicamente, ma non è detto che la centrale ci sarà in Piemonte. Sapete che ha detto Silvio Berlusconi in un'intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno? Ieri era appunto in Puglia. Io la Gazzetta del Mezzogiorno non la ricevo e mi dispiace, insomma, ma lo riporta oggi il Sole 24 Ore, lo riporta il Sole 24 Ore a pagina 16. Berlusconi sul nucleare: sì al nucleare, ma non qui in Puglia, perché qui non serve, perché la Puglia è già energeticamente autosufficiente, che è un concetto scientificamente non ha granché senso. Ma insomma, Berlusconi, dice il Sole 24 Ore, fa un po' come anche Cotta, come anche per esempio Brunetta l'ha detto in Veneto, così come lo stesso Zaia in Veneto, Cappellacci in Sardegna, la Polverini nel Lazio. Cioè, sul tema del nucleare, che è un tema molto spinoso, il governo e anche Scajola ha ribadito, il programma va avanti, ci vuole il nucleare. Sì, ma non qui, grazie. O meglio, qui non serve, qui siamo autosufficienti, qui abbiamo già dato, questo è il termine che si usa più spesso. Voglio fare due citazioni di due candidati, anche se regioni diverse, così siamo abbastanza rispetto della par condicio, anzi tolgo abbastanza, in totale controllo e rispetto della par condicio. Emma Bonino, candidata in Lazio per il PD, fa un'intervista al Riformista, parla soprattutto di questo voto dei cattolici, no? Che è il grande tema. Non ne posso più di queste domande, premette la Bonino. I cattolici non sono un pacco di voti che si comprano tanto al chilo. Non ne posso più di strumentalizzazioni. Ho altri pensieri per la testa, voi sarete sorpresi, ma punto alla fine della campagna elettorale. Però poi tutta l'intervista di Alessandro Calvi è su questo. Bossi l'ha definita un'abortista estrema. Non so che vuol dire, ormai c'è anche un uso dell'italiano curioso. Se c'è qualcuno che sa quanto sia doloroso abortire, sono le donne italiane, non certo Bossi, risponde la Bonino. Ma poi lei ha capito i vescovi, la CEI, che hanno parlato, poi precisato qual è la loro posizione? Chiedete ai vaticanisti, non chiedete a me. E sugli matrimoni gay, quello che dirà la Corte, ne abbiamo parlato ieri, la Corte Costituzionale che si dovrà esprimere, ma lo farà dopo le elezioni, dopo. Quello che dirà la Corte sarà un vincolo per tutti, punto e basta. Non è una risposta diplomatica, ma siamo in un paese democratico, lo Stato di diritto è un pilastro, le istituzioni esistono per questo. Insomma, una Bonino un po' anche infastidita, non ne posso più di queste domande. Per salvare la par condicio, leggo un'intervista a Luca Zaia, candidato per la Lega, per il centrodestra in Veneto. Al Corriere della Sera, pagina 10, parla di cosa? Beh, quella che era l'anticipazione che ieri vi avevo dato di uno Zaia che forse starebbe meditando di rimanere ministro anche se fosse eletto alla Regione Veneto. Io ancora ministro? Ne sarei lusingato. Perché ieri Bossi ha detto: all'agricoltura rimaniamo noi, sostanzialmente, spetta a noi anche se non c'è più Zaia. Faccio quello che mi dice di fare Bossi, dice Luca Zaia. È evidente che se lui ha detto che io resto il punto di riferimento della Lega, Lega per l'agricoltura, la cosa mi lusinga. Sul rimanere lì nel caso di doppio incarico dice: ma no, io non ho esplorato nulla, so che alcuni giuristi hanno dato il loro parere, ma si tratta di domande fatte dai giornali ai giuristi. Comunque, cosa dicono questi pareri? Allora, dice Zaia, dipende da come si considera il presidente della regione. Se lo si considera un consigliere regionale come gli altri, allora non è possibile, perché la Costituzione parla chiaro, non si può stare in un consiglio regionale e al governo. Se invece non lo si considera consigliere come gli altri, il presidente, in quel caso il doppio incarico sarebbe possibile, che poi sarebbe terzo, perché insomma c'è anche il Parlamento. C'è chi cita sentenze da una parte, c'è chi ne cita di opposte. Evviva l'Italia, dice Zaia. Forse no, il terzo Parlamento sarebbe incompatibile, non lo so. Questa è ignoranza mia. In ogni caso, Zaia, io ancora ministro ne sarei lusingato, mentre sul Messaggero già si parla del giro, di giro poltrone di possibili ministri. Se non va, se va via dall'agricoltura Zaia, bisogna trovare un posto a Galan, scrive Marco Conti sul Messaggero a pagina 4. Bisogna trovare un posto a Galan, ma forse Galan non andrà all'agricoltura, forse verrà dirottato Matteoli dalle infrastrutture all'agricoltura. Al posto di Matteoli dovrebbe andare Scajola, a quel punto le attività produttive sarebbero libere e lì arriverebbe Galan, che in un primo tempo però voleva il dicastero di Sandro Bondi, quello della cultura. Bondi dovrebbe lasciare la cultura per occuparsi direttamente del partito. Insomma, c'è la possibile voto e poi girandola nei ministeri, scrive il Messaggero. C'è tutta la vicenda, per concludere la politica, si punta molto l'unità sulla Bindi, quella di cui Berlusconi ha detto è più bella che intelligente, no, più intelligente che bella, non mi ricordo, comunque. La Bindi ha regalato alla Bresso uno specchio, perché la Bresso è quella di cui il presidente Berlusconi ha detto ogni volta che si vede allo specchio si rovina la giornata. Allora, alla Bindi regalarono, dopo la battuta fatta da Berlusconi, uno specchio. La Bindi questo specchio l'ha preso, l'ha regalato alla Bresso, come dire, ecco, regalo a te lo specchio antipremier. Addirittura l'Unità cosa fa? Mette in prima pagina una foto di Silvio Berlusconi visibilmente ritoccato, con tutte le rughe, molto invecchiato, dal titolo Giù la maschera, e c'è un editoriale di Lidia Ravera, la scrittrice, a pagina 2, dicendo: guardate la foto che abbiamo messo in prima pagina. È quella di un uomo di 74 anni, come dovrebbe essere, insomma, con tutte le sue rughe, i suoi occhi avvizziti. Berlusconi, poi dice Lidia Ravera, è terrorizzato dalle donne di valore, non sa come comprarle né dove sdraiarle, non sa considerarle uguali, tantomeno superiori. È questo, più delle rughe, a dimostrare la sua età. Quelli che avevano 20 anni quando le fidanzate erano femministe l'hanno imparato in fretta, i nati dopo lo danno per scontato che le donne valgano quanto gli uomini, lui no, lui non ha ancora imparato. Questa è Lidia Ravera sull'Unità, ma insomma... Rientriamo subito dopo il traffico, c'è la vicenda Santoro e poi l'economia. In primo piano. Allora, in realtà del caso Santoro dico poco, tanto ne parleremo alle 8.30 al nostro sondaggio, dovete votare su radio24.it, lo vedrete, vi interessa vederlo questa sera, Santoro che andrà in onda da Bologna, dal Palladozza, una manifestazione tutto esaurito, ci saranno anche Luttazzi, Benigni, Dario Fo, Nicola Piovani, Morgan, Mario Monicelli, Milena Gabanelli, Riccardo Iacono, Antonello Venditti, annunciato perfino Emilio Fede, leggo dal Corriere della Sera, ne parleremo alle 8.30, c'è il Libero, molto, molto duro, come detto la prima pagina di Libero è quella citata prima, Santoro resuscita gli zombie, è duro anche il Riformista che dice l'unico senza video alla fine sarà Bruno Vespa, cioè Santoro soprattutto ha avuto una presenza sui giornali, nelle TV come mai prima, c'è solo una persona di cui non si è più sentito parlare, Bruno Vespa. Vuoi vedere che è lui la vera vittima della par condicio? Chiede il Riformista. Alle 8.30 ne parleremo. Voglio andare alle notizie economiche. Come detto, il Sole 24 Ore apre sulla crisi e la difficoltà dell'euro. La perdita di 380.000 posti di disoccupazione ai massimi livelli. In tre mesi persi 428.000 posti, si legge a pagina 2. È davvero l'impatto della crisi. Con una disoccupazione all'8,2%, era dal 95 che i dati Istat non ci consegnavano questa fotografia del mondo del lavoro, e dunque in questo caso davvero poco ottimismo. Ma c'è poi il caso Fiat. Ieri abbiamo letto le anticipazioni date da Repubblica, le indiscrezioni sul piano che Marchionne dovrà presentare agli azionisti il 21 di aprile. Sul Sole 24 Ore la borsa crede allo spin-off, cioè ieri è andata bene in borsa Fiat, e le anticipazioni e le indiscrezioni con Marchionne, che ha fatto diffondere una nota. Insomma, Fiat ha smentito qualsiasi anticipazione definita prematura e priva di ogni fondamento. Ovviamente Repubblica ci torna, e scontro sul piano. Il Lingotto: nulla di deciso, Marchionne mai licenziato. Tra l'altro nel primo pomeriggio viene anche messo questo virgolettato di Marchionne: cercare di picchiare la Fiat in un momento come questo è la cosa più sproporzionata che abbia mai visto, quasi vergognoso. E poi Marchionne che precisa: stiamo ancora lavorando, quelle dei giornali sono speculazioni e qualsiasi cosa dicessi sarebbe incompleta. Ovviamente soprattutto l'elemento che faceva più discutere erano questi anticipo di indiscrezioni di 5.000 esuberi, con Marchionne che dice mai licenziato nessuno. In ogni caso staremo a vedere. C'è molto anche di Marrazzo, come detto per il Corriere della Sera, l'apertura pagina 2-3, la svolta clamorosa, quella in cui nelle indagini sul caso Marrazzo è stato indagato un maresciallo dei carabinieri Nicola Testini della Compagnia Trionfale di Roma, che è accusato della morte per omicidio volontario di Gian Guerino Cafasso, vale a dire il pusher del caso Marrazzo, trovato morto e si è scoperto, insomma, forse un paio di mesi dopo, probabilmente con una partita di droga tagliata, e ora la svolta è questa: sarebbe stata tagliata appositamente e fornita appositamente da questo maresciallo dei carabinieri, la dose letale di droga sarebbe stata fornita dal carabiniere. Pagina 2-3 del Corriere. C'è anche a pagina 3 qualche, non so, Goffredo Buccini non è che abbia incontrato Marrazzo, però qualche stralcio, anche perché Marrazzo è a Londra per un corso intensivo in inglese, si sta preparando per il ritorno in Rai dopo le elezioni. Ma dice un Marrazzo che viene anche messo virgolettato: avrei vinto un'altra volta io a queste elezioni, senza quel disastro avrei vinto di nuovo. Si è incontrato con Esterino Montino, vale a dire l'ex vicepresidente che ora fa da presidente, e ha detto Marrazzo a Montino: sei sotto pressione, vero? Con Montino che quasi si commuove, scrive Goffredo Buccini, dice: avete capito, con quello che ha passato lui mi chiede se sono sotto pressione io, non è incredibile? Adesso comunque sta meglio, ma certo un Marrazzo ancora in difficoltà. Sono alle citazioni finali. C'è la proposta che viene abbracciata dal Secolo d'Italia in prima pagina di intitolare l'ospedale Sandro Pertini di Roma, quello dove è morto Stefano Cucchi. La proposta in realtà nasce dal direttore di Mondo Operaio. Quello dove è morto Stefano Cucchi, in circostanze mai chiarite fino in fondo, di intitolare a lui l'ospedale. Rinunciamo a Sandro Pertini e intitoliamo l'ospedale a Stefano Cucchi. Ci dobbiamo fermare qui, le segnalazioni conclusive me le tengo per quando ci sarà un po' più di tempo, e ricordo di votare il sondaggio su radio24.it e poi alle 8.30, ora GR24.